Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10-8 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero. Io non so da dove partire, ho talmente tante cose da raccontarvi oggi e da dire prima che cominci la trasmissione, prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, che non so proprio da cosa partire e ho paura di bruciare tutto, no? Perché succede così, quando qualcuno ha voglia di raccontare delle cose o così freme un po' per dirle, poi finisce che le butta via in qualche modo, non c'è il tempo giusto. Allora cominciamo quello che è il classico, ecco, inizio del riposo del guerriero, ovvero i numeri per i vostri sms: 349 238 6666, e il numero verde, perché anche oggi giochiamo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spedere in libri, cd, dvd, attraverso i siti internet. E per risolvere il mistero in 24 minuti dovrete arrivare alla soluzione con gli indizi che ascolterete, e più indizi ascolterete però più il premio si abbasserà. La risposta, come sempre, può essere un personaggio oppure una notizia della settimana. Siccome non è andato in onda il promo, io chiedo, possiamo far ascoltare il primo indizio subito, adesso? È una cosa che ho pensato di fare, perché di solito il primo indizio così lo conoscete già, perché va in onda durante la settimana, e invece ho pensato di farvelo ascoltare ora, poi lo riproporrò quando cominceremo con il gioco. Ma intanto, ascoltate il primo indizio di oggi. A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Eccolo qua, questo è il primo indizio di oggi, poi sicuramente ne parleremo alle 11.30 con il mistero in 24 minuti. Il numero per prenotarvi, potete farlo da subito, 800 24 00 24. E entriamo a questo punto nel vivo della puntata di oggi, che si è ispirata un po' a un film, non so se l'avete visto, io personalmente no, però la trama mi ha molto coinvolto, in qualche modo così racconta quella che è la vita di tutti i giorni, che è fatta di ricette non necessariamente legate alla cucina, ma ricette della vita fondamentalmente, ma le due cose a volte si possono anche unire, e quindi c'è un film che racconta molto bene questo unione, che ha avuto anche grande successo, che è stato presentato al Festival Internazionale del Film di Roma nel 2009 fuori concorso, un film interpretato da Meryl Streep e che unisce due libri diversi, due storie vere unite però in questo film che aveva come titolo Julie and Julia. Sono Julia Child, buon appetito! Prima di diventare un mito della cucina, Julia Child era solo un'americana che viveva in Francia. Dovrei trovare qualcosa da fare. Che cosa ti piacerebbe davvero fare? Mangiare. E ti piace benissimo. Oh, sì, benissimo. Ma guardati anche adesso. Hai spazzato tutto. E sto lievitando davanti a te. Ma che cosa ha a che fare Julia Child con me, Julie Powell, una modesta impiegatuccia? Come va il lavoro, Julie? Devo parlare con lei per la mia assicurazione. Sì, e può parlare con me. Lei ha qualche autorità? No. Hai sentito che le è successo? Showtime ha comprato il mio blog per farne una miniserie. Io lo potrei fare un blog. Io di pensieri ne ho. Scrivi un blog sulla cucina? Io non sono una vera cuoca come Julia Child. Julia Child non è sempre stata Julia Child. E se andassi a una scuola di cucina? Bonjour! Il progetto Julie barra Julia. Proverò tutte le ricette del libro di Julia Child. 365 giorni, 524 ricette. Sto rischiando la salute per un compito folle. È una follia? Sì. Columbia Pictures presenta... Dovevi vedere come mi guardavano quegli uomini, ma poi hanno scoperto che non avevo paura. Oh, Julia, fai sembrare tutto così facile. La storia di un mito. Il tuo libro è destinato a cambiare il mondo. Che dette a una ragazza la ricetta per cambiare la sua vita. se non rispetto la data, avrò sprecato un anno intero della mia vita. Ah, c'è tutta questa robaccia sul pavimento. Non vi scusate mai, non abbiate paura. Dalla scrittrice regista Nora Ephron. Quanto è buono. È proprio buono, vero? Meryl Streep, Amy Adams. Stavo annegando e lei mi ha tirato fuori dall'oceano. Non esagerare. Che c'è per cena? Che c'è per cena? Oh mio Dio. Lei non ha nessun talento per la cucina. Julie e Giulia, basato su due storie vere. Non vi spaventate mai, a un certo punto dice Mary Steele interpretando il ruolo di Julie, e allora quello che vorrei riuscire ad ascoltare oggi dai nostri ospiti e trasmettervi in qualche modo è proprio la ricetta per cambiare la vostra vita, perché a volte si può cambiare alcuni atteggiamenti, alcuni modi, cambiare forse alcuni colleghi non si può, però si può ridimensionarli. Luca Stanchieri, buona giornata. Buongiorno. Eccoci qua, mi scuso per adesso con gli ascoltatori se useremo per un certo periodo, sicuramente quello della nostra conversazione che comincerà tra poco, la parola stronzo, ma lo devo fare per forza perché il libro di cui parliamo è questo, 101 modi per liberarti dagli stronzi e trovare soddisfazione nel lavoro. Luca, tu sei un coach e credo che con questo genere di persone tu abbia avuto a che fare, magari non direttamente, però con i racconti che hai ascoltato. Assolutamente, anche perché molto spesso le persone richiedono programmi di allenamento per fronteggiare questo tipo di persone. Che ci sono dappertutto e spuntano come i funghi. Assolutamente, sono orizzontali, dal capo urlante all'impiegato arrogante, al collega antipatico, invidioso, addirittura all'azienda prepotente. È vero che forse poi è quella più difficile da sconfiggere, tra virgolette, no? Almeno come atteggiamento nostro in questo senso sconfiggere. Allora Luca, ci sono gli aggiornamenti sul traffico e io vorrei partire dopo gli aggiornamenti con il primo assioma, nel senso che spesso lo stronzo ha un certo fascino e cadere in quel fascino diventa già un problema dall'inizio, quindi partiamo da lì tra pochissimo. Strade in diretta. Sulla 10 Genova Ventimiglia si incontrano code in direzione di Ventimiglia tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova Aeroporto a causa di un incidente. Rimaniamo in Liguria, sulla 12 Genova-Livorno è chiusa sino alle 14 l'uscita di Recco nei due sensi di marcia per il disinnesco di un ordigno bellico. Sempre per lo stesso motivo dalle 11 alle 14 sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Genova Nervi e Santa Margherita Ligure sulla linea Genova-La Spezia. Torniamo in autostrada per lavori programmati, la 3 Salerno Reggio Calabria è chiusa sino alle 18 tra gli svincoli di Scilla e Sant'Elia in direzione di Reggio Calabria. Di conseguenza il traffico è più intenso sulla statale 18 in inferiore e in entrambe le direzioni si rallenta nello stesso tratto. E tutto per il momento, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Il riposo del guerriero. Luca, allora partiamo proprio da qui, dal fascino che gli stronzi hanno, così, che riescono a... hanno un po' quest'aura, no, intorno a loro, in qualche modo piacciono. Sì, in alcuni casi, all'inizio, ma è soprattutto un fascino veramente che gli attribuiamo noi. Lo stronzo spesso, o l'SI come lo chiamo nel libro, un personaggio che sembra sempre sicuro di sé, non ha sensi di colpa, sembra avere per esempio un'altissima autostima. È vero, ma e quindi secondo te il fascino è dettato dal così la proiezione che abbiamo nei suoi confronti, quindi vorremmo essere un po' così? Ma sì, a volte ci piacerebbe perché lo vediamo quasi invulnerabile. Ma? Ma al contrario, è un personaggio che... come dire, ha in primo luogo lui un disprezzo di sé profondo, che riesce a calmierare esclusivamente rendendo gli altri ancora peggiori di lui, insomma. Cioè lui vede il disprezzo di sé e può in qualche modo stare meglio solo disprezzando maggiormente gli altri. Beh, questo è già un bel punto di partenza, sì. Perché se si riesce a mettere in testa questo modo di pensare, già hai scartato il personaggio. Sì, soprattutto l'ha individuato. Che non è sempre facile. Allora, però, il problema è averne poi a che fare, perché è vero, averlo individuato è già un inizio, sicuramente, però poi in qualche modo bisogna anche conviverci. Assolutamente, anche perché la forza di questi personaggi nel mondo del lavoro sta proprio nella convivenza forzata, cioè noi non li inventeremo mai a cena a casa nostra, però ce li troviamo tutti i giorni in ufficio. Allora lì riuscire a elaborare una strategia per poterli neutralizzare o sminuire o comunque arginare è assolutamente fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza, perché il lavoro per noi è parte integrante e fondamentale della nostra vita, e questi personaggi sono caratterizzati proprio dal fatto che ci inducono rabbia, mortificazioni, angosce, paure, cioè in qualche modo rendono il lavoro come relazione un vero inferno. Quindi bisogna reagire. E infatti, allora cosa possiamo fare poi praticamente? Ma la prima questione riguarda, come dicevamo, la diagnosi. Sì. Cioè, un personaggio del genere è un personaggio che permanentemente, in maniera persistente, tirerà fuori questi atteggiamenti che ci irritano. Quindi se noi facciamo una buona diagnosi, una buona caratterizzazione, diciamo ok, questa persona è fatta così e non ha solo questo comportamento, ma è proprio fatta così, in primo luogo noi eviteremo ogni volta il rinnovo della ferita e delle sorprese nell'essere trattati male. Nel senso che sappiamo che tanto è quello il suo modo di comportarsi, per cui dobbiamo metterlo in un cassetto, prenderlo per tale, per buono e ciao. Esatto. Il secondo elemento è che non dobbiamo mai pensare che i suoi atteggiamenti dipendano da noi, cioè non dobbiamo avere sensi di colpa, non ci dobbiamo mettere in discussione da questo punto di vista, al contrario dobbiamo alimentare la nostra autostima e la nostra consapevolezza rispetto a obiettivi, mete, strategie, e soprattutto dobbiamo esprimere permanentemente le nostre potenzialità al lavoro, perché lì è il punto di forza che noi abbiamo contro questi personaggi, cioè riuscire comunque a esprimere il meglio di sé al lavoro, quindi non cadere nella provocazione, non cadere, come dire, nella vendetta o un atteggiamento speculare a quello che subiamo. Chiaro. È fondamentale. Cioè il concetto è non mettersi al suo livello, al pari da quel punto di vista, e quindi semplicemente fare, agire e lasciar perdere, cioè la forza deve essere su quello, nel senso che perché poi non riusciamo a lasciar perdere. Sì. È fondamentale la costruzione di alleanze. E come si costruiscono queste alleanze? Perché non è facile, perché a volte ti allei con altri stronzi, quindi diventa certo. Proprio complicato. Certo, anche perché spesso e volentieri questi personaggi sono frutto di una cultura, di un contesto, no? E non solo sono così, anzi. Ecco, da questo punto di vista, a mio avviso, può sembrare un po' un discorso moralistico, però se da una parte la psicologia può spiegare l'atteggiamento di questi personaggi, dall'altra parte solo come dire, un'alleanza etica può in qualche modo arginarli, perché il problema è culturale. Sicuramente, certo. Quindi quando noi siamo nel posto di lavoro, quando noi siamo in ufficio, quando noi siamo di fronte a un'azienda, dobbiamo sempre pensare che non ci sono solo gli stronzi, che c'è gente onesta, brava, che vuole lavorare in modo eccellente, ci sono colleghi con cui si possono sempre costruire delle alleanze. Il problema è che a volte questi personaggi hanno un peso così forte che noi diventiamo pessimisti, cioè generalizziamo e vediamo un po' tutto grigio, invece se noi riusciamo attraverso la diagnosi a capire che invece è possibile costruire delle alleanze, no? Anche con le aziende prepotenti, no, in qualche modo, noi dobbiamo renderci conto che la nostra funzione di cliente è sempre più fondamentale, e quindi in qualche modo riuscire a costruire alleanze, riuscire a costruire correnti, diciamo, no, etiche e positive nel lavoro, che vedono veramente il lavoro poi una delle espressioni fondamentali delle relazioni umane, delle espressioni di se stessi, può essere veramente un argine a questi comportamenti antietici. Ecco, io però devo dire questo, che magari in un posto di lavoro esiste l'SI, come lo definisci tu, che lo spiego per gli ascoltatori, SI sta per stronzo idiota, perché c'è poi proprio una classificazione anche da quel punto di vista, che cosa fa? Tende a sgretolare queste alleanze, come? Mettendo uno contro l'altro, no? Cioè, ecco, quindi anche questa alleanza che si cerca di costruire poi si sgretola nel momento in cui tutti gli altri, gli alleati, tra virgolette, subiscono un po' la prepotenza di questo personaggio, o di più personaggi, perché ce ne fosse solo uno, a volte ce ne sono di più. Per cui diventa difficile anche crearsi l'alleanza e si tende poi a isolarsi. Assolutamente, fra tra l'altro io da questo punto di vista, come dire, ho elaborato l'idea di una strategia che può essere o costruttiva o sottrattiva. È costruttiva nella misura in cui io posso crearmi alleanze che possono in qualche modo cambiare la cultura del contesto. E non è semplice, eh? E non è semplice. No, perché lì, no, quello è un lavoro dal basso difficilissimo. Però pensiamo pure al fatto che in teoria non dovrebbe nemmeno essere semplice che questa gente in qualche modo... Ma quella è proprio una... Quella... Luca, quella è proprio una teoria. Quindi non dobbiamo proprio tenerla in considerazione. Però ecco, in effetti hai ragione, perché fra l'altro questo tipo, purtroppo, l'atteggiamento vessatorio o arrogante o prepotente ha dalla sua parte non solo la convivenza forzata, ma anche il fatto che in qualche modo è facile esserlo, no? Certo. Cioè, dar valore ai propri collaboratori, orientare la propria azienda nella soddisfazione del cliente, stabilire regole del gioco chiare e un senso di appartenenza forte è più complesso. Per cui, in effetti... è più facile, no, essere e assumere questi tipi di atteggiamenti. Ma laddove la strategia costruttiva di alleanze, quindi anche di espressioni di controspinte, non è possibile, funziona la strategia sottrattiva. Cioè? Cioè fare in modo che quella sorta di isolamento diventi un punto di forza. Fare in modo che, per esempio, sottrarsi alle provocazioni, sottrarsi proprio dal punto di vista emotivo all'incidenza che queste persone hanno, far sì che, poi questo dipende... Cioè diventare indifferenti alla persona, al personaggio, cioè non considerare, non è neanche facile quello, perché poi ci sono le relazioni, poi ti dicono che sei una persona che non si relaziona con gli altri, no? Poi succede certo, questo. Ma nello stesso tempo io faccio bene il mio lavoro. Questo indubbiamente, ecco, la forza fosse proprio quella, cioè quella alla fine di non poter avere quel tallone d'Achille. Dice, tu puoi dire tutto quello che vuoi, però il mio lavoro è incontestabile, per cui alla fine io sono incontestabile, perché questo sì, è il mio scopo qua dentro. Bisogna stare attenti, no? Sì. Perché il lavoro incontestabile spesso in questi contesti è anche un lavoro che deve essere mediocre, perché si diventa talentuoso, rischia pure lì, no, di generare un altro ce lo poi invidie, che quelle poi generò automaticamente altri stronzi. Ma la domanda alla fine è: ne usciremo, Luca Stanchieri, da tutto questo o no? Ma... o ci vogliono più di 101 modi, ce ne vogliono 1100? Sì. No, io penso che io sono tendenzialmente ottimista. Bisogna esserlo, lo siamo tutti. Perché comunque esistono nei posti di lavoro, esiste sempre di più la tendenza a cercare la collaborazione, per esempio, piuttosto che la competizione, esiste la tendenza a essere sempre più competenti piuttosto che mediocri, esiste la tendenza sempre di più all'orientamento al cliente piuttosto che a una tecnica autoriferita, quindi esiste, e non solo, ma c'è anche un altro elemento su cui bisogna riflettere. Per esempio, oggi le persone sono molto più sensibili all'atteggiamento negativo e arrogante di quanto lo erano prima. È molto più facile per un cliente oggi essere consapevole di sé e capire che può cambiare azienda. Prima, in qualche modo, questi atteggiamenti erano un po' più legittimati, no? Pensiamo al capo arrogante, adesso, autoritario, adesso non si sopporta più. Esatto, ci si rende conto di della situazione, per cui forse quel famoso lavoro dal basso di cui si parlava prima sta funzionando, ce la dà con il tempo, bisogna avere pazienza, però funziona, cioè diventa poi un elemento utilizzabile. Ma è fondamentalmente un fattore culturale. Poi d'altra parte, se noi pensiamo ai danni economici che queste persone fanno, da tutti i punti di vista, perché allontanano clienti, distruggono le aziende, creano poi necessità. A quel punto sì, si è risolto il problema. Malgrado questo, però, forse il danno economico lo si vede molto in là, perché spesso lo si reputa ad altro, non a quello, no? Quando esatto. Ci si arriva più tardi, quindi quello è poi un problema anche diverso. Luca, io ti ringrazio molto, anche perché hai aperto, credo, una discussione particolarmente interessante, perché riguarda veramente tutti, perché tutti noi abbiamo comunque a che fare con altre persone in generale. Questo non vale solo nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo delle relazioni, anche delle amicizie. E quindi cerchiamo proprio di trovare il modo per uscire da questo tipo di per non subire più questo tipo di personaggi. Grazie Luca Stanchieri, buona domenica. Grazie a te, grazie a te. A presto. 101 modi per liberarti dagli stronzi e trovare soddisfazione nel lavoro, che è fondamentale. Giustina Porcelli, buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, tra poco noi ci parleremo con te, perché ci colleghiamo proprio a questo. Tu hai scritto in realtà un altro saggio che ci insegna una cosa particolarmente importante, ovvero dire di no, perché dire di no non è per niente facile. Il libro si intitola Come imparare a dire di no e vivere meglio. È vero, imparare a dire di no molto spesso fa bene. Giustina, tra pochissimo saremo con te. Il riposo del guerriero. Nel riposo del guerriero di oggi parliamo di ricette, ricette per vivere meglio, ne abbiamo sempre bisogno e poi ce ne sono. Intanto vi ricordo anche il numero per gli sms, 349-238-6666, magari avete anche voi qualche ricetta per vivere meglio e voglio ascoltarla. Siamo con Giustina Porcelli, che ha scritto questo saggio, Come imparare a dire di no e vivere meglio. Allora Giustina, rieccoci qua. Buongiorno ancora. Allora, dire di no è difficile già per il suono, come dici tu, perché no suona già male e quindi è complicato. Sì, più o meno, sì. Dunque, allora, io ho concepito questo saggio, che è comunque un saggio abbastanza leggero, insomma, si legge con facilità, appunto pensando al no come se no fosse una parola straniera, quindi... È un po' uno scherzo il mio. Ho concepito questo libro con un capitolo che è la conversazione, poi c'è la comprensione, poi ci sono gli esercizi, addirittura le soluzioni a questi esercizi. Perché così la metafora è: non sai pronunciare correttamente il no, magari ne pronunci anche 100-200 al giorno, ma non nella misura, nella maniera giusta, per cui il risultato è assolutamente inefficace. Allora, che cosa sbagli nella tua pronuncia? La tempistica, l'intensità, il tono, che cosa c'è che non va? Risolviamolo insieme, proviamo a capire come si può migliorare l'efficacia quindi della tua risposta, perché il no è una risposta assolutamente importante e indispensabile. Ecco, anche perché molto spesso il no nasconde una paura, no? La paura, per esempio, di non essere abbastanza vicini alla persona che abbiamo di fronte, quindi in qualche modo contraddirla. E già bisognerebbe vincere quella paura per poter dire il no. Sì, esatto. Chi in genere fa fatica a dire di no sono le persone quasi sempre più sensibili e timorose, insomma, chi ha paura di perdere o di non trovare apprezzamenti e rispetto, soprattutto affetto a cominciare dal lavoro, continuando in famiglia e nella vita privata, quindi sociale, pubblica, come privata e intima. È un bel pasticcio, perché il primo problema è capire che questo è un problema. E io ho usato dei toni abbastanza scherzosi per essere forse anche più ficcante, ecco, un brutto termine, ma funziona. Perché il primo passo indubbiamente è capire che questa difficoltà ha una serie di conseguenze anche sul proprio umore, a cominciare proprio dal piccolo, dall'umore, dalla giornata, e poi con conseguenze magari anche un pochino più delicate, che ho affrontato con l'aiuto di una psicologa, perché io non sono una psicologa, però a un certo punto mi sono detta: veramente cosa succede? Beh certo, anche perché i meccanismi esistono, cioè quante volte noi ci siamo pentiti di non essere riusciti a dire di no, no? Per una situazione, perché è fondamentale, esatto. Spesso, quindi poi ci rimuginiamo, ci dispiacciamo, chiaramente non possiamo più ritornare su quella cosa, ormai è andata così, esatto. E quindi lì cominciano i problemi, ecco, che dici. Infatti tu. Il punto d'arrivo non è quello di dire sempre comunque no, perché così si è migliore, si è più fighi. Il punto d'arrivo è riuscire a dire no quando si vuole dire di no. e quando magari diciamo sì con la bocca e contemporaneamente il nostro corpo sta dicendo no con la testa e con lo stomaco, e quindi ci sono una serie di cose che magari un amico, una persona che ci sa guardare, ascoltare, osservare, capisce che stiamo facendo qualcosa controvoglia, però ahimè nella maggior parte dei casi alla gente gliene importa veramente poco, ma se ha ottenuto il suo risultato e quindi il suo sì, per quanto fasullo, se lo tiene, porta a casa quello. Allora abbiamo un esercizio che dobbiamo fare tutti, per esempio, Giustina? Ma io nella parte che ho dedicato agli esercizi veramente ho scherzato con questa parola, insomma, quindi esercizi di pronuncia, esercizi di grammatica addirittura, quindi gli esercizi che io ho utilizzato nel libro sono più così, un po' per riderci su alla fine di un percorso che è più o meno serio, insomma, o che comunque con toni scherzosi appunto affronta una tematica impegnativa. Allora da dove possiamo cominciare? Dunque, secondo me assolutamente nel piccolo, bisogna cominciare con passettini, un passettino alla volta, e quindi magari prima di dire un no grande quanto una casa al capo e quindi compromettersi, come sentivo prima, parlavate di lavoro eccetera eccetera, magari cominciare a dire no a chi ci sta più accanto e quindi può, se ci vuol bene, capire che stiamo cercando di affrontare questa problematica e di risolverla per star meglio e per star meglio con gli altri, quindi cominciare a dire di no al marito o alla moglie, cominciare a dire di no ai genitori, ai figli, perché anche questa è una cosa importante per evitare vizi e mica vizi, e, insomma, cominciare nel proprio piccolo, nella propria vita quotidiana, quella di sempre, di minuto per minuto, e soprattutto cominciare a dirsi un po' di no. Questa cosa ti piace? No, non farla più. È difficile non farla più, va bene, però cerchiamo una strada, un compromesso per riuscire a sentirci meno frustrati poi da questa impossibilità, in questa impossibilità. Quindi un po' di esperimenti, sperimentarsi e sperimentare questa possibilità senza scartarla, ecco, a prescindere. Certo, poi mano a mano nel nostro piccolo questo no comincia a funzionare, vediamo che riusciamo a dirlo, sentiamo un pochino più liberati, poi possiamo estenderlo, ovviamente quando necessario, questo è fondamentale, non deve essere appunto no a prescindere, possiamo estenderlo alla nostra vita anche all'esterno, nel nucleo familiare. Un'ultima domanda per te, Giustina. Sì. Il libro nasce dalla tua incapacità di dire di no che avevi magari una volta, oppure non so, da chi ti è stato intorno, o così, per un altro motivo? Sicuramente dalla mia incapacità di dire di no, ahimè, nel senso che secondo me, io sempre nel contesto del libro di come imparare a dire di no, a vivere meglio, non bene, meglio, ho diviso la gente in due macro categorie, che sarebbero i no mancalingua e i no madrelingua, cioè chi nasce con questa propensione, con questa facilità a dire di no comunque quando sente il bisogno di dirlo, sì, invece non riesce proprio, certo, sempre comunque. Io ahimè credo di essere nata no madrelingua, mi però piacerebbe... sto veramente facendo un percorso mio e anche insomma come va? Differente. Come va? Direi che va bene, va bene, nel senso, ecco, che sì, ci si impegna, ecco, non è mai facile. No, certo. A volte alla meglio. Ti sposta da un'altra parte, poi magari sì. C'è chi direbbe invece che bisogna sempre rispondere di pancia, e quindi se non ci riesci non deve essere un problema, ma quello è un'altra cosa. E poi ovviamente esistono le ricette e forse anche le contro ricette. Giustina, io ti ringrazio molto. E ringrazio te. Spero che tu riesca a dire di no presto, quando necessario, ovviamente. Ma guarda, ci sto lavorando, e comunque insomma i primi passi li abbiamo messi. Avrei un libro da consigliarti, Giustina Porcelli, Come imparare a dire di no e vivere meglio. Ciao, buona domenica, grazie a te, ciao. Intanto io vorrei, così sono curioso di ascoltare anche le vostre voci, nel senso che se avete voglia di mandare un sms al 349-238-6666, sono curioso di capire quanti degli ascoltatori fanno fatica a dire di no, chi invece non ha nessunissimo problema e quando necessario riesce a dire no, perché ci sono delle ricette che magari non sappiamo mettere in pratica e che dovremo imparare a invece cucinare. E queste sono le ricette di donna di Ornella Vanoni, e di ricette continuiamo a parlare per riuscire a vivere meglio, e continuiamo a discutere di questo con Elena Orlandi. Buona domenica, Elena. Buona domenica e buongiorno a tutti. Allora, tu sei una life trainer, insegni a vivere, come funziona? Cosa fa una life trainer? Io mi occupo di aiutare le persone a migliorare il loro quotidiano, quindi tutte le persone che hanno dei problemi, andare a letto la sera soddisfatti della loro giornata, quando questa soddisfazione iniziano a portarsela dietro per un po' di tempo, inizia a essere un problema, arrivano da me e vediamo di risolvere quel problema. È un bel impegno, Elena, eh? Sì, è un bel impegno, infatti trovo che il mio sia il lavoro più bello del mondo. Ah, questo sicuramente è una sorta di angelo, no? In qualche modo possiamo dire. Senti, tu hai scritto un libro pubblicato pochi mesi fa, che è Licenza di chi se ne frega, che è un po' abbiamo introdotto già con il discorso di prima, cioè imparare a dire di no. Significa anche imparare in qualche modo a dire chi se ne frega, perché tante cose noi facciamo quotidianamente e le sentiamo un po' come imposizione e non riusciamo a fare in modo che ci entrino da una parte e escono dall'altra, quindi non ne facciamo le viviamo sulla nostra pelle e non riusciamo invece a fare in modo che se ne vadano, e invece dovremmo forse imparare a fare finta di niente, sai, dirlo è facile ma farlo Sì, infatti è proprio questo il punto. Il chi se ne frega, come il no di cui parlavate prima, non sono dei diplomini fisici, ma sono degli obiettivi umani. Quindi non è qualcosa di dato che si può consegnare come fosse un premio, ma è una cosa che ti devi proprio conquistare. Noi quando nasciamo, secondo te, abbiamo, Elena, cioè siamo veramente tutti indiscriminatamente incapaci di fare in modo che le cose non ci tocchino, oppure no? Come diceva prima l'altra nostra ospite, è un fatto così personale, caratteriale? No, assolutamente. Io penso che l'unico vero nostro problema, grandissimo problema, è che ci snaturiamo. Cioè, facciamo questo paragone. Sì. C'è un seme e quel seme è un seme di melo. Quel seme di melo è ovvio che avrà delle condizioni ambientali che gli consentiranno di produrre bellissime mele o essere un po' più scarso, magari. Sì. E comunque è un seme di melo predisposto a diventare un melo. Noi purtroppo non assecondiamo la naturalità che è in noi, ma inseguiamo sempre un obiettivo esterno precostituito o fornitoci da altri. E qui inizia il vero problema. Sono un melo e vorrei essere invece un pero, vorrei essere un arancio, vorrei essere sempre tutto tranne quello che sono. E non ci riusciremo mai, ovviamente, perché e se la partenza è quella. Non ci riusciremo mai, non staremo mai veramente bene e vivremo sempre in questo stato di limbo costante che non ci consente di stare al meglio. Quando ognuno di noi è stato dimostrato in tutti i modi, è unico e in quanto unico può apportare quel valore umano aggiunto e dare un contributo notevole a questo pianeta. Quindi se smettessimo tutti di voler fare tutto quello che non siamo, essere tutto quello che non siamo, probabilmente questo sarebbe veramente un pianeta molto felice dell'universo. Ecco, ma questo non è facile, non è proprio, non è e basta, punto. E dovremmo cominciare quindi a dire, a non dire più ma io non servo a niente, a cosa, perché esisto, no? La domanda iniziale. Uh-huh. Posso essere utile a qualcuno o a qualcosa? E quando ci si pone questa domanda, lì siamo proprio nel gradino più basso, no? Di questo chi se ne frega, cioè proprio non riusciamo a dirlo. No, devo dire così, che siamo finalmente nel gradino giusto. Ecco, bene. Intravedere la licenza del chi se ne frega. Oh, allora partiamo. Perché senza rispondere a quella domanda e continuiamo ad andare avanti col paraocchi, e quello è il vero problema. Va bene, allora partiamo da quel gradino. Ci sono aggiornamenti sul traffico, poi partiamo da lì per arrivare poi al nono piano, oltre l'attico, come dici tu nel tuo libro. Tra poco. Il riposo del guerriero. Mentre scopro che molti ascoltatori e ascoltatrici fanno fatica a dire di no, cerchiamo proprio di prendere questa licenza di chi se ne frega. Elena, allora, eravamo al primo gradino, perché tu arrivi fino al nono piano, addirittura poi all'attico. All'attico è difficile arrivarci, perché vuol dire essersi liberati veramente di tutto, essere belli, sereni e felici. Sì, difficile, ma non impossibile. Non impossibile, certo, se no non saremmo qua. Allora, sì. Partiamo dal primo gradino. Tu dicevi rendersi, cioè farsi questa, porsi questa domanda: a cosa servo? Sì, è una delle domande fondamentali che di solito si dicono, ma alle quali non si cerca mai di dare una risposta. È un po' come accade alla persona che purtroppo riceve una diagnosi poco piacevole, no? E allora inizia a chiedersi perché proprio a me, accidenti, e cosa avrò fatto di male, però non risponde mai a quella domanda, è una domanda buttata lì. Quando invece ci facciamo carico di provare a dare una risposta, allora vengono fuori delle considerazioni molto interessanti, perché iniziamo a diventare consapevoli del fatto che dipende molto più da noi che non dagli eventi quello che accade nella nostra vita. Ecco, siamo quindi noi che in una qualsiasi situazione decidiamo come approcciare. Zanardi ha perso le gambe, poteva disperarsi, spararsi, volerla fare all'infinita, oppure cogliere anche in una disgrazia così enorme un'opportunità. L'ha colta e sappiamo bene che è una persona che vive in uno stato di benessere. Ecco, quindi forse non è impossibile raggiungerlo. Elena, forse questo è vero, quando succedono cose molto gravi, molto difficili, molto pesanti, no? Come quella che hai citata, mm-hmm. per esempio, è sì. meno facile forse davanti invece a questioni apparentemente più banali, no? Mm-hmm. Per cui non ci rendiamo conto che siamo noi magari la causa di quello che sta succedendo, perché sono situazioni meno evidenti come questa e quindi non riusciamo a vederle. Sì, anche questo è vero. E il fatto che non si veda qualcosa, spiego bene, dipende dal dove ci troviamo. Quando siamo molto bassi, quindi poco consapevoli di noi, ci poniamo poche giuste domande, perché sappiamo così per tradizione che con la giusta domanda emerge anche la risposta, cioè la risposta è già dentro una domanda ben posta. Quindi dovremmo iniziare a porci qualche domanda in più, anziché andare avanti sempre come pecoroni. Senza porcele, tu dici. Allora, cominciamo, il secondo piano parla di autostima, per esempio. E l'autostima bisogna conquistarla e non è sempre facile. C'è una ricetta, un modo per cominciare almeno a raggiungerla? Sì, beh, certo. Allora, l'autostima dipende, il livello di autostima di partenza di una persona dipende dal sostegno, che è uno dei cinque ingredienti fondamentali che ci fornisce l'ambiente attraverso chi si prende cura di noi quando siamo piccoli. Quindi il sostegno è uno degli ingredienti fondamentali. Dal momento in cui viene a mancare si crea una bolla e questa bolla si riempie di paura. Quella paura è inversamente proporzionale all'autostima, quindi più noi lavoriamo su quella bolla, più accresciamo l'autostima. In che modo? Allora, mi è mancato il sostegno quando ero piccola, cioè mia mamma non mi sosteneva mai nelle scelte, non dava risalto, non faceva il tifo per me, era sempre apprensiva, intimorita. Benissimo, ora sono un adulto, ci rifletto e vado oltre i limiti di mia madre. Io non posso continuare a dare colpe ai miei genitori per quello che non sono riusciti a darmi. Avranno dato il massimo che avranno potuto, ci auguriamo, sono arrivati fino a un certo punto, io ho il compito di andare oltre la generazione che mi ha preceduta. Quindi partire eventualmente anche da un loro errore, da una loro mancanza, lavorarci su e andare avanti. Quanto io oggi credo in me? Queste sono le domande. Cosa mi piace fare? Se mi impegno al massimo, riesco a ottenere un risultato? Sì. E allora so che posso farle le cose, perché io non ho mai conosciuto nessuno che impegnandosi, credendo veramente in qualcosa, non sia riuscito. Quindi non ci posso credere. Allora parto dal presupposto che a volte manca anche un po' di volontà, di determinazione. Forse la determinazione manca per ottenere un risultato. Certo, perché a volte la determinazione manca perché non si è, ad esempio, abbastanza fiduciosi nei propri presupposti, nelle proprie qualità, no? E quindi tu ci provi, però dici oppure perché ti metti sempre in discussione, sempre troppo in discussione, per cui consideri gli altri sempre migliori di te, più bravi. Mm-hmm. Beh, quello non è mettersi in discussione, quello lì è sempre fare dei paragoni. Quello lì però è un bel pero, chissà se io riuscirò a essere un bel pero. Il nostro punto di confronto non può essere sempre con l'esterno. Cioè, il campione mondiale di velocità mira a fare anche il suo miglior tempo. È vero che poi se riesce a superare anche tutti gli altri ben venga, ma quando partono sono concentratissimi, gli altri non esistono. Esistono loro e la loro performance migliore. Non possiamo sempre paragonarci all'altro, perché quello porta via concentrazione, energia, e se mettiamo caso avessimo tutti a disposizione sempre un 100%, dobbiamo stare attenti bene a come dividiamo quel 100%, quindi se iniziassi a utilizzare 10 di quel 100% per dar retta a quello che ho accanto, un altro 10 per la preoccupazione di non farcela, un altro 10 per quello che potrebbe dire Pinco Pallo, io da un 100% passo già a 70%. E quindi cominciamo male, adesso che poi farò sicuramente più fatica. Certo. Esattamente. Senti, esattamente. Arrivano tanti messaggi, ascoltatori che non riescono a dire di no in tanti frangenti, è un po' come essere capaci di dire che se ne frega, no? Perché quando tu dici non mi interessa, riesci anche a dire di no, a negare qualcosa a qualcuno, quindi. Ne te ne leggo uno, per esempio. La mia grossa fregatura è la mia incapacità di dire di no a nessuno. Mi sono ritrovata senza soldi per non dire di no a mariti, amici, senza DVD per non dire di no a tutti quelli che vengono a casa mia e afferro senza pudore 20 o 30 fra i miei 300 DVD e senza forze non riesco a dire no, dai, non prenderlo. E questo è un problema, è vero, quando, oppure c'è un altro, c'è Roden di Bari, esempio, che dice: io sono capace di fare molte cose, aggiustare i PC, metto a posto questo e quell'altro, e gli amici continuano a chiedermi favori per fare, così risparmiano i soldi sull'assistenza e io sono sempre in giro ad aiutarli, perché si fa fatica a dire di no. Da dove si parte? Sì. Allora, nel primo caso, non mi ricordo come si chiama la ragazza che si ritrova. Non te l'ho detto, non te l'ho detto io. Soldi. Si chiama Carmen, te lo dico adesso perché l'ho detto adesso. Ok, sì. Allora a Carmen proporrei questo ragionamento: non c'è soluzione in quello che fa lei, è solo uno spostamento del problema. Un amico ha un problema di soldi, si rivolge a lei. Sì. Lei, dal momento in cui cede quei soldi, si ritrova senza. Abbiamo spostato il problema, adesso non è più l'amico a non avere i soldi, ma è lei a non avere i soldi. Quindi questo è un chiaro esempio di spostamento del problema, quando in realtà la soluzione sta da un'altra parte. Dove? Quindi non è la soluzione quella lì, la soluzione è dare una mano a questo ragazzo a gestire meglio, che adesso sparo a caso. Sì, sì, non beh, so c'è, ma chiaro, vabbè. Il problema, è no? Ovvio, però. A gestire meglio i suoi soldi, come fare, ti aiuto a trovarti un lavorettino part-time per incrementare, ti aiuto l'altra persona alla soluzione. Ma non ti do io la soluzione. Esattamente. È un errore. La soluzione per Pinco Pallino è in Pinco Pallino. Va bene, sei stata veramente molto chiara. Non abbiamo la risposta per Rodenick in questo momento. Io ti ringrazio però, Elena Orlandi, e spero davvero che il tuo libro possa servire, sicuramente è così, a imparare a dire chi se ne frega, perché davvero tante volte è importante per vivere più felici e più sereni, e questo poi lo scopo anche di questo libro. Grazie Elena. Prego, ci mancherebbe. Buona domenica. Buona giornata a tutti. Licenza di chi se ne frega, guida pratica per onesti egoisti. Il riposo del guerriero. Le 11:09 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Le ricette per vivere meglio. Grazie per i messaggi che state mandando. A quanto pare l'argomento interessa, perché tutti vorremmo vivere meglio, sicuramente, insomma, chi più chi meno, ma tutti abbiamo un po' questo obiettivo. Elena Orlandi, ti ho ripescata. Ciao Elena. Sì. E ti ho ripescata ancora tra voi. Meno male, perché stanno arrivando molti messaggi con tante esperienze di vita, tutte con grande difficoltà a dire chi se ne frega o dire di no. E allora volevamo rispondere anche a una domanda, ma in realtà ce ne sono tante molto simili. Cioè, chi, per esempio, sapendo fare delle cose, non riesce mai a dire di no nel momento in cui gli amici gli chiedono: mi aggiusti questo, mi metti a posto questo, mi fai questa cortesia? Dicono sempre di sì, e loro però non hanno più tempo per loro, e soprattutto quando avrebbero bisogno di qualcuno non chiedono mai. Esatto, classico caso. Classico caso. Dunque, a tutte queste persone posso dire, posso rispondere in questo modo: di base c'è la paura di rimanere soli e quindi di fare qualcosa per gli altri per in qualche modo tenerseli vicini. E tutto questo però ha dei costi molto alti, anche perché in fondo dentro di noi iniziamo bene a capire che quelle persone ci sono vicine perché noi facciamo qualcosa. E non è che ci sono vicine per il piacere di esserci. E quindi comunque è un rapporto che non dà grandi soddisfazioni. Senti, è un po' come un rapporto a pagamento, diciamolo, sì, in qualche modo. Sostanzialmente no? Sì, quindi non dà grandi soddisfazioni. E quello che gli consiglio di fare è fare in modo di introdurre il concetto di cosa sei disposto a fare per ottenere. Quindi sì. Faccio un esempio. Vai. Ho fatto un corso di grafologia e tutti lì a scrivermi. Dimmi come sono, com'è il mio carattere. Certo. Esattamente. No? C'era tutta questa. Poi iniziavo a dirmi: caspita, perché ho fatto quel corso? Perché adesso sono contornata da persone che vogliono. Allora mi è venuto in mente di introdurre una variabile. E ho iniziato a dire: vuoi una pianista calligrafica? Va benissimo, allora mi porti un foglio con almeno una ventina di righe scritte di getto, non certo, copiate, sì, con la firma finale. Questo, io ho introdotto sostanzialmente una misura, cioè sì, un impegno, cioè un impegno dall'altra per parte ottenere, esattamente. E te ne sono arrivate due, ecco, infatti non agli amici quantomeno. Sei stata particolarmente chiara e devo dire che questa cosa funziona, brava. Cioè, tipo, vuoi che ti aggiusti questo, portamelo e poi vediamo se posso farlo. Già il fatto di portarlo è un impegno, per cui è uno scambio interessante. Elena, credo che questa sia una ricetta da provare subito per chi avesse questo tipo di problema. E ridico il tuo libro perché continuano a scrivere gli ascoltatori chiedendone il titolo. Eccolo qua, è proprio così: licenza di chi se ne frega. Eccolo, spieghiamo perché è anche virgolettato. Grazie. Per cui ha la sua importanza. Sì. Grazie Elena, ciao, buona giornata. Ciao. Buona giornata a tutti voi. Ancora ricette per vivere meglio e un altro film. Dimmi qualcosa di eccitante. Che cosa vuoi che ti dica? Ah! È stato fantastico, amore, vero? Sì, assolutamente fantastico. Allora, veniamo al suo problema. A quanto pare sono incinta. Congratulazioni. Grazie, ma non ne sono tanto felice. Terrò il bambino e fine della storia. Condoglianze, allora. Disgrazia. Il più grande mistero su Jenna Anderson è: come ha fatto una donna così fantastica ad avere una vita così misera? Ciao. Non mi importa che sia la maga delle torte, non mi cambierei mai con lei. E no. Dove sono i soldi di oggi? Li ho messi in tasca. Beh, che aspetti a darmeli? Sto inventando un nuovo dolce, la torta odio mio marito. C'era un ristorante vicino a dove sono cresciuto. Avevo una passione insana per una cameriera. Mi ha fatto pensare a lei. Andiamo bene, allora. Era un complimento. Nessuno mi fa mai complimenti. Stai ingrassando, maialina. Torta della gestante fallita, triste e disperata. Flambé, ovviamente. Come ti senti oggi, Joe? Lo stesso bastardo di ieri. Come stai tu? Il solito disastro. Il tremendo marito? Che succede se amerai il bambino più di quanto ami me? Il solito schifo. Che cosa ci fai qui? Volevo vederti. Torta, non posso avere una relazione perché non voglio che mio marito mi uccida. Senza banana. Possiamo prendere un caffè insieme? Non posso prendere il caffè, è nella lista dei cibi da evitare, ma si può sapere che razza di dottore sei? Tu non ti rendi conto della bellezza che hai dentro. Tu non sei soltanto una semplice cameriera. Fai la scelta giusta, Jenna. Ricomincia da capo. Potrei trovare il senso della vita in quegli occhi. Torta, brivido d'amore. Ok, torniamo alla realtà. Jenna, no! C'è la porta aperta. Lui era il medico, perché lei alla fine insomma va male col marito, eccetera, eccetera, comincia a fare ricette che cambiano in base anche alla sua vita, e poi alla fine la sua ricetta è ritornare a essere innamorata con il medico stavolta. Sì, è vero, vi ho raccontato un po' il finale, però Waitress intitola La ricetta d'amore, il film. Chiara Parrini, ciao, buona domenica. Ciao, buongiorno. Ti ho voluto introdurre così perché insieme a Simona Malcovatti avete scritto un libro che è Professione Wedding Planner, cioè l'organizzatrice di matrimoni, perché per un matrimonio perfetto ci vuole una festa perfetta. Sì, è vero. Insomma, è abbastanza vero. La ricetta, diciamo, giusta. La ricetta giusta anche per un matrimonio, o meglio per l'organizzazione di un matrimonio perfetto, come hai detto tu. Allora Chiara, facciamo una cosa, ci sono aggiornamenti sul traffico, perché io vorrei partire... Magari tu no, ma io sì, vorrei partire proprio dal cibo, perché credo che sia una delle cose più importanti in un pranzo di matrimonio ed è quella la cosa spesso più discussa. Il riposo del guerriero. Allora Chiara, impostiamo questo matrimonio, scusa se comincio dal cibo, ma poi sai che è la cosa che rimane sempre più impressa, no? Agli invitati, o mi sbaglio? Assolutamente, è verissimo, poi noi siamo italiani, siamo delle buone forchette, quindi io mi rendo conto quando gli sposi vengono e si vogliono affidare al nostro servizio di consulenza che puntano molto, puntano direi quasi tutto, anche da un punto di vista economico, proprio sul buon cibo, sulla qualità del cibo. Perché poi gli invitati, quello che si ricordano più ancora di sono stati in un meraviglioso posto è ho mangiato proprio bene. Esatto, allora vedi che ci ho visto giusto, insomma. Allora partiamo da lì, abbiamo capito che è importantissimo. Ci sono dei segreti, una ricetta per non sbagliare? Ma in realtà secondo me è lasciarsi proprio anche un po' guidare e consigliare dagli esperti del settore, quindi nel momento in cui si opta per un buon ristorante lasciarsi consigliare dallo chef, se si decide invece per esempio per un catering o un banqueting lasciarsi consigliare appunto dal titolare, perché devo dire che queste figure, no, professionali sono poi quelle che sanno maggiormente consigliare e se gli sposi si affidano, ecco, è importante affidarsi, questo è sicuramente la chiave per una buon risultato. Quindi non partire con un preconcetto, cioè voglio assolutamente questo, questo e questo, ma ascoltare. No, direi di no, anche perché a volte magari appunto questi chef sanno proporre degli abbinamenti che possono sembrare azzardati, ai quali uno non aveva pensato, e poi invece incontrano il gusto e il palato degli invitati. Non sarebbero chef altrimenti. No, infatti. Allora, una volta che abbiamo messo a punto, diciamo così, quello che sarà il nostro catering o quello che mangeremo, ricominciamo da capo, cioè partiamo dal punto zero. Da dove? Dalla lista degli invitati? No, di da dove solito si parte dalla scelta della location, quindi sì, il posto dove io credo appunto e voglio ambientare il mio matrimonio. E in questo ovviamente si apre un panorama di possibilità diversissimo e ovviamente ogni sposo, ogni coppia di sposi ha i propri gusti e le proprie preferenze. In base anche alla stagione, no? Perché se è bello magari stai fuori. Certo. Beh, normalmente la stagione dei matrimoni è quasi tutta spostata nella primavera estate, quindi sicuramente si punta a trovare dei posti che danno la possibilità di movimentare il matrimonio, la festa del matrimonio all'aperto. Quindi piace molto appunto soprattutto in una serata magari tiepida poter stare all'aperto in collina e quindi godere così della frescura. Sì. Pronto? Sentivo male, a un certo punto è andata via la comunicazione. Ci sono. Allora, questo la location è importantissima, poi ognuno ha il proprio gusto. A noi è capitato nella nostra esperienza di avere sposi che scegliessero il classico loft metropolitano, quindi delle soluzioni molto moderne, come invece poi gli sposi romanticoni molto classici che invece optano per la classica villa. Ovviamente a seconda della location prescelta poi il matrimonio prenderà una piega diversa in un caso o nell'altro. Ecco, gli invitati per non sbagliare, perché quello è un problema, se invito questo non posso invitare l'altro, però se invito l'altro non posso, diventa veramente difficile. Nubili al tavolo, voglio mettere magari mia suocera lontano da quest'altro parente perché so che non si sopportano, è un problema che in effetti anche noi ci troviamo ad affrontare, nel quale ovviamente noi come consulenti non possiamo più di tanto mettere il becco. Anche perché non conoscete le dinamiche a sufficienza, no? No, infatti, no, non le conosciamo, però la lista degli invitati è spesso rappresenta spesso un problema per queste coppie di ragazze, appunto, che si devono sposare, e richiede tanto tempo il fatto di stilare appunto il numero esatto, e poi ancora richiede più tempo avere le conferme di questi invitati per riuscire finalmente a capire quanti saranno e quindi anche poi di conseguenza decidere un po' come movimentare e organizzare tutto il matrimonio. Ecco Chiara, secondo te il matrimonio perfetto quanti invitati deve avere? Bah, allora, diciamo intorno, io posso dirti per esperienza, più o meno gli invitati sono 100-120 al massimo. Poi dipende molto anche dalle regioni geografiche. Da noi, io dico da noi al nord, perché appunto noi operiamo principalmente al nord, sicuramente i numeri sono più contenuti. Man mano che ci si sposta invece verso il sud, i numeri aumentano. Ci è capitato addirittura di organizzare un matrimonio in Puglia in cui, come dire, tutto il paese sia stato invitato a partecipare della gioia dei giovani. Beh, quella è una cosa, però devo dire, molto carina, perché quindi al di là degli amici, degli inviti personali, tutto il paese significa un paese in festa. È una bellissima cosa. Assolutamente, e spesso in quei casi la festa non dura solo un giorno, sì, ma dura magari anche un intero weekend. Immagino, certo, come in India, che dura forse tutta una settimana, se non mi sbaglio, un matrimonio. Sì, è vero, è vero. Ecco Chiara, e cos'è che c'è invece assolutamente da non fare? Cosa c'è da non fare? Beh, innanzitutto escludere, secondo me, a priori delle persone che poi magari potrebbero anche, risentirsene. E cosa c'è da non fare? Scegliere, per esempio, come viene da dire, delle location troppo piccole per il numero di invitati. A volte purtroppo succede, e quindi capita di vedere gli invitati che mangiano uno sull'altro proprio perché non si è trovato il posto adatto a tutti. Un wedding planner parte dal budget, diciamo così. Io ho 10.000 euro, non posso spendere, sì, di più. Questo secondo me è il valore aggiunto del fatto di affidarsi a un consulente, avere un'idea di budget e sapere come poi spalmarlo sulle singole voci e, diciamo, i singoli momenti che compongono tutta l'intera organizzazione, perché viceversa, non avendo un'idea di quanto possa costare quel servizio piuttosto che un altro, alla fine gli sposi, quando tirano, no, la linea del totale, si mettono le mani dei capelli. Certo. Perché hanno sforato di gran lunga quello che avevano pensato. Invece il nostro consiglio è proprio quello: cercare di capire in che cosa vogliono spendere maggiormente di più, perché è un servizio al quale loro tengono particolarmente, e quindi poi aiutarli con i soldi, diciamo, che avanzano a fare il resto, comunque un buon matrimonio. Chiara, certo, l'ultima domanda per te è questa: avendo un budget molto molto ridotto, perché sì, sai, quando il budget non è ridotto è tutto più facile, no? Posso fare la festa, certo, più bella del mondo, magari viene male lo stesso, però comunque quello già è una partenza. Allora, avendo il budget più basso del mondo, e cosa mi consiglieresti di fare per un matrimonio comunque eccellente? Beh, in questo caso io direi selezionare accuratamente gli invitati, e quindi magari puntare su una cerimonia intima con davvero i parenti e gli amici più stretti. Probabilmente, proprio perché poi sono pochi gli invitati, non optare per la soluzione che adesso va tanto di moda, che è quella della location più il catering, come dicevo prima, ma magari optare per un ristorantino dove appunto quindi la cucina è sicuramente di qualità, ma i costi sono anche inferiori. E quindi cercare di fare delle cose semplici, però pur sempre eleganti, ecco, di gusto. Senti Chiara, sei una fan delle bomboniere o no? Basta. Allora, diciamo, ti posso dire quello che succede realmente. Sì? Che gli sposi, quando vengono da noi, partono dicendo: non voglio assolutamente le bomboniere, perché sembra un retaggio di qualcosa, perché ormai... immaginavo, per quello te l'ho chiesto, semplicemente infatti, di veramente passato. Finisce sempre, perché per quale strano condizionamento che arrivi dalle mamme, dalle suocere, o magari poi sono loro stessi che cambiano idea lungo il percorso, le bomboniere si fanno. Ecco, sicuramente non si fanno più i classici oggettini d'argento, ma si cercano delle soluzioni un po' più nuove, delle scatoline in plexiglass con i confetti colorati, per esempio, dei tubi trasparenti con un semplice fiocco, oppure adesso va di moda la bomboniera ecosolidale, quindi devolvere appunto una parte del devoluto a qualche associazione, a qualche opera di beneficenza. Ecco. Però qualche cosa si fa, perché comunque c'è questo, diciamo, appunto retaggio di bon ton che dice che agli ospiti bisogna comunque dare un regalo, ci vuole, non so, un po' come certo, il compleanno, quando si festeggia un regalo, cioè c'è quello, c'è quello verso chi festeggia, ma anche quello verso gli invitati, no? Spesso si fa anche così. Chiara Parrini, ti ringrazio, ringrazio anche Simona Malcovati, anche se non l'abbiamo sentita, perché insieme hanno scritto Professione Wedding Planner, l'organizzazione di matrimoni. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao Chiara, ha visto che la prima cosa in un matrimonio, come ho detto, e a quanto pare è proprio così, è il pranzo. Il nostro tappeto si srotola per il gastronauta. Il gastronauta. Io ti vedo arrivare sul tappeto rosso qui con con un vassoio e un bicchiere in mano, forse. È proprio così. Ciao Davide, buona giornata. Ciao. Senti, ciao, buongiorno. Parliamo un attimo, scusa, ma di matrimoni. Sì. C'è stato qualche matrimonio a cui sei andato dove hai mangiato malissimo? Beh, di solito il 99,9%. Scusami, no, questa è una battutaccia, nel senso, ma si mangia male perché si lasciano consigliare dagli stessi catering e dagli stessi chef, cioè si mangia sempre uguale, sono gli stessi, perché questi ripropinano a tutti la stessa ricetta, cioè lo stesso menù, gli conviene, è già tutto pronto, bello, preparato. Invece in realtà io mi immaginerei un bellissimo matrimonio con degli hamburger, per esempio, una bella hamburgerata, e poi magari invece della bomboniera un dog bag, perché bisogna riciclare, quindi come bomboniera si portano via le bottiglie aperte e quello che è rimasto del cibo, all'insegna del risparmio. Io credo ci sarebbe molto divertente, io mi divertirei molto di più a un matrimonio di questo genere. Non l'avrei mai trovato, però Io ho fatto da consulente a un matrimonio, sì. e devo dire che ho chiesto, ma per amicizia, ho chiesto alla sposa cosa gli piaceva mangiare. E così quel matrimonio è nato all'insegna di che cosa lei voleva mangiare. Quindi le cose più forse impensate per un matrimonio. Poi alla fine è successo che una persona ha chiesto chi era stato il consulente, è venuta da me a chiedere se io volevo, se lo facevo di professione. Questo è uno scoop. Organizzavo questo. Abbiamo il nuovo mestiere di Davide Paolini, wedding planner, no. Niente. Ho detto per una persona sola, l'ho fatto per motivi di cuore, basta. Certo. Poi non è chiusa la mia carriera di consulente. No, io credo che il problema dei matrimoni è sempre quello dei catering e degli chef, di avere tutto pronto per 150 persone, sì, non è semplice. 120, 200 o 300 al sud, però vedi sempre questo salmone lungo 2,5 metri, rosa molto spinto, quindi punturato di sicuro, vedi volavan, c'è cioè questo volavan che arriva sempre con questi con dentro ogni cosa, no, perché non bisogna anche capire cosa c'è dentro. E poi arriva il tris di pasta, no, il tris di pasta è bellissimo, cioè sono molto stereotipati. Io vorrei che ci fosse un po' di fantasia. Ora ho detto agli hamburger di non chiamare ovviamente McDonald's come consulente, però sicuramente potrebbero essere delle cose molto divertenti, ad esempio la piadina con lo squacquerone e il prosciutto, cioè una bella cosa di campagna. Ecco, io mi immagino un matrimonio di campagna, me lo immagino all'insegna del rustico, andando a trovare così dei prodotti particolari, oppure un bello spiedo che gira, non lo so, e tante altre cose, insomma, il pesce, anche il pesce però non basta con questi salmoni che si vedono sempre dappertutto. Un matrimonio, certo, un matrimonio come nello medioevo, no? Con il maiale e il pollo che gira nel... Diciamo che ora ci sono i vegetariani, quindi bisogna rispettare anche i vegetariani. Va bene, il grande insalatone. Bisogna fare l'uno e l'altro. Però devo dire che ci vorrebbe un po' di fantasia, ecco, io non la vedo la fantasia, però la fantasia la dovrebbero portare gli stessi sposi, perché è la loro festa, e quindi dovrebbero offrire quello a cui loro piace, insomma. Io sentivo prima, molto interessante, il discorso dei no. Sì. Ecco, a me capita molto spesso di essere invitato e delle volte mi vengono offerti dei piatti che sinceramente in quel momento, quel giorno, oppure non mi vanno, io ho coraggio di dire no, perché poi io sto male se mangio una cosa che non mi piace, oppure che so che in quel momento non posso mangiare, oppure la spezzetto nel tavolo, c'è una tecnica di spezzettamento che ogni tanto vedo che c'è qualcuno che lo sa fare molto bene, cioè? Fa finta di non mangiarlo, insomma, però cioè, il no anche diciamo dal punto di vista del cibo, secondo me è importantissimo, perché ognuno di noi sa quello che piace e quello che non piace. Quindi io dico sempre, mangiate, se qualcuno così nel parlare, ovviamente non nel senso di dare consigli medici, per carità, però bisogna mangiare sempre quello che uno si sente. Se io un giorno mi sento di mangiare una grande bistecca di manzo, anche se so che la carne diciamo non è che così positiva, ormai tutte le ricerche lo dicono che bisogna mangiarla molto distanziata, la carne di manzo, beh, se io mi sento di mangiare una bistecca, io la mangio e dico sì, cioè è il mio corpo che lo richiede, come se richiede una pasta asciutta, come se richiede dell'insalata o altre verdure. Io credo che bisogna sentirsi dentro per dire sì o no sul cibo. Quindi essere capaci anche di rinfiutare o rinunciare in quel momento a quel piatto. Sì, poi magari spostare. È evidente che ci rimane male la persona che ti ha invitato. Però forse bisognerebbe anche spiegarglielo che... Io per esempio dico questo: quando si invitano le persone a cena o a pranzo, bisogna che gli invitati dicano sempre se c'è qualcosa che non gradiscono, che non vorrebbero mangiare, perché è successo anche a me di cucinare per delle persone delle cose completamente sbagliate, però non sapendolo a priori non puoi, no? Magari, questo è verissimo, bisognerebbe sempre farlo, però molte volte succede all'improvviso, infatti. Allora io ormai chiedo, c'è qualcosa che proprio non mangi, che non vorresti mangiare, eccetera, così evito l'errore. Ma questo mi sembra giusto, ormai molti ristoratori sono cresciuti da questo punto di vista e ti chiedono se hai allergie, se hai intolleranze, quindi questo secondo me è molto, ma molto importante. Però volevo tornare al discorso sul discorso del matrimonio, sì. E permettimi, io l'ho detto scherzando, ma il discorso della bomboniera invece del dog bag, di tornare con una bomboniera inutile, cioè tornare con quello che viene gettato. Secondo me, oggi che si parla tanto di spreco, potrebbe essere anche un'idea. Dobbiamo imparare a farlo già nei ristoranti. Io lo faccio, ma mi guardano sempre molto male. Non quei ristoratori, no, ma le persone intorno nei tavoli vicini di solito. Ecco. Beh, tu sai che però non di quello che rimane sul tavolo, sul piatto, beh, ma certo. Negli Stati Uniti ci sono, a New York c'è un'organizzazione che ogni giorno recupera quello che avanza nei ristoranti, ma non quello che avanza sul piatto dei clienti, ovviamente, quello che avanza in cucina. Io credo che in molti matrimoni avanzano moltissime cose in cucina, quindi anche la bottiglia aperta in cui c'è ancora tre quarti di vino è la cosa più facile da portare via, poi la bottiglia aperta, appunto, perché no? Buttarlo via? Allora può essere un gesto, visto che ormai ci sono molti giovani che si sposano, sono sensibili a questo, potrebbe essere così un'idea per recuperare, per non buttare. Secondo me saranno felici anche gli ospiti, guarda, che magari per un giorno riescono a mangiare e a bere senza spendere un centesimo, anche per il giorno dopo e via discorrendo, no? Penso proprio di sì, con questi mala current. Esatto, grazie Davide, ciao. Buona domenica, ciao. Grazie davvero, le previsioni del tempo tra pochissimo e poi giocheremo con il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24 per giocare. Il riposo del guerriero. Pronti con il mistero in 24 minuti, pronti a risolverlo. Un mistero in 24 minuti. Per voi fino a 1000 euro da spendere in libri, CD, DVD, la possibilità se riuscirete a risolvere il mistero. Può essere una notizia della settimana oppure un personaggio di fantasia oppure reale, purché ovviamente un personaggio conosciuto. Il modo per risolverlo è ascoltare gli indizi. Più indizi ascolterete e più però il premio si abbasserà. Il numero verde per partecipare è 800 24 00 24, ed eccolo il primo indizio. Tira sempre un vento che non cambia niente, mentre cambia tutto, sembra aria di tempesta. Senti un po' che vento, forse cambia niente. Certo cambia tutto, sembra aria bella fresca. Eccolo qua il nostro primo indizio. Roberto da Modena, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo scelto Ligabue per te, sei contento? Grazie. Eccolo qua, il primo indizio, niente paura. Vabbè, non c'è bisogno di presentare il Ligabue, sicuramente no. Roberto, no, ci sono... È un vicino di casa. Quindi... Addirittura? No, per modo così, di dire. Insomma, come cuore, diciamo. Sì. Allora, Roberto, siamo a 1000 euro. Che cosa vuoi fare? Vuoi dare già una risposta? E appunto il premio potrebbe essere quello, oppure possiamo dimezzarlo a 500 euro con un secondo indizio. Io proverei un secondo indizio. Nel senso che è buio completo, questo stai per dire, va bene. Eccolo qua il secondo indizio, allora. Hey! che sei padrone delle tue azioni, ora che sai prendere le decisioni, ora che sei in grado di fare le tue scelte, e da davanti a te tutte le strade aperte. Prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché ognuno avrà la sua giusta razione. Devo dire, è una canzone straordinaria, sia per l'arrangiamento, il testo, a me piace molto. In fila per tre si intitola Edoardo Bennato, l'avrei riconosciuto, Roberto. Sì, sì. Questi sono i due indizi, Niente paura, Ligabue, In fila per tre, Bennato. Niente, ascoltando un po' il testo mi viene da dire il referendum che c'è stato a Mirafiori. E ci starebbe anche. Roberto, potrebbero essere 500 gli euro vinti da te, ma lo scopriremo solo allo scoccare del 24esimo minuto. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie. Iuri da Brindisi. Sì, buongiorno. Ciao Iuri, eccoci. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, due indizi li abbiamo scoperti, siamo già a 500 euro, cosa vuoi fare? Beh, no, io provo la soluzione. Sì. Anche se il primo indizio mi aveva portato a pensare tutta un'altra cosa, il secondo mi ha sviato. A questo punto penso assolutamente come il radioascoltatore di prima. Comunque, visto che devo dare una risposta, do quella che, per cui ho iniziato a pensare, ed è Berlusconi ed il caso Rubi, che con le ultime dichiarazioni della ragazza si è un po' riaperto, e quindi l'indizio parlava di senza paura e si va avanti così. Niente paura, gli sì. Anni passano e le donne cambiano soprattutto. È vero, alcune passano un minuto, altre invece ci vuole più tempo, così racconta Ligabue. Grazie Iuri, buona giornata. Ciao. Allora, buongiorno. Danilo da Pescara. Ciao Danilo. Buongiorno a te. Guarda, i due sei ragazzi prima hanno dato sicuramente delle risposte possibili, ma ce ne sono tante altre. Però siccome questa è la settimana del mistero, io voglio sentire il terzo. Va bene, allora facciamo così, gli aggiornamenti sul traffico e poi ascoltiamo il terzo indizio per 300 euro. Un mistero in 24 minuti. C'è Danilo da Pescara in onda in questo momento che vuole ascoltare il terzo indizio. Siamo a 300 euro, vi ricordo il numero per partecipare, 800 24 0024. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Allora, Danilo, eccoci qua, era 5 giorni di Michele Zarrillo. Non so se ti ricordi questa canzone, quando era uscita, la si cantava nei karaoke, perché era un po' all'epoca dei karaoke. E c'erano un sacco di ragazzi che la volevano cantare, cominciavano a cantarla, poi quando si accorgevano che aumentava di un'ottava, non ce la facevano più e diventavano stonatissimi, sgolandosi come dei forsennati. Ogni volta che l'ascolto mi viene in mente questo aneddoto. Allora, Danilo, la tua risposta. Guarda, la mia risposta io penso che sia un personaggio e spero che sia Landini, il segretario della FIOM. Sì, sì, è chiarissimo, anche perché siamo sempre nello stesso ambito. Grazie, sì. Davvero. Ciao Danilo. Ciao. Buona giornata. Ciao Danilo da Modena. Salve. Eccoci qua. Danilo, buona. Allora, tre indizi li abbiamo scoperti, siamo a 300 euro. Cosa vuoi fare? Ma io ci provo. Aspetta, anche perché... Aspetta, allora se ci provi ascoltiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Niente paura, niente paura, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita. Niente paura, Ligabue, In fila per tre, Bennato, 5 giorni di Zarrillo. Questi tre indizi. Danilo. Sinceramente sono stato anticipato dai ragazzi precedenti. Ma sai che nessuno ha dato la risposta giusta. Perfetto, eh? Però ecco. Io vado sempre su un personaggio. Questa volta è Fini. Fini. Il personaggio, con il suo distacco da Berlusconi. Grazie Danilo, buona giornata. Grazie, grazie. Ciao, anche ciao. A te. Ciao. Io rido perché va bene. Alberta, buongiorno. Buongiorno. Io so che oggi mi odierete, lo sai Alberta? Perché? Oggi mi odierete. Appena vi darò la soluzione del mistero mi odierete. Direte basta. Oh. Alberta, allora, cosa vuoi fare? Io ho pensato a tutt'altra cosa. Dai, proviamoci. Dopo aver sentito solo il primo indizio. Sì. E ho pensato ad una notizia che ho letto su un quotidiano pochi giorni fa. Sì. Di una stilista italiana che alla propria sfilata ha invitato delle donne un po' agee, quindi non più giovanissime, ma ricche di fascino. E le ha fatte sfilare, sono appunto Marisa Berenson, Rania Di Giordania, credo anche Meryl Streep fosse tra le invitate, anche perché tu dici, Alberta dici, il fascino non passa mai di moda anche dopo una certa età. E la prima canzone parla appunto del tempo che passa, se non ricordo male. Sì, anche, certo. Delle donne, quindi ho pensato a quello, ecco. Grazie Alberta per aver cercato una notizia diversa da quelle più, tra virgolette, scontate. Un abbraccio, buona domenica. Prego, grazie a voi. Chi lo sa, potrebbero essere anche i 300 euro, ma andiamo avanti. Giuseppe da Torino, buongiorno. Buongiorno, buona domenica. Grazie. Giuseppe, allora, cosa vogliamo fare? Abbiamo ancora degli indizi per buio. Te? Buio totale. No, ne ho troppe notizie in realtà. Ah, ne hai troppe? Non sapevo quale scegliere. Guarda, se tu solo intuissi il primo indizio, cosa nasconde, avresti la soluzione. Io lo so. Sì. E allora io niente, mi rovino sul primo indizio, che era poi la cosa che avevo pensato inizialmente, anche se gli altri due non legano in effetti, però ci provo. E la risposta è la caduta degli uccelli, cioè la morte degli uccelli in volo in vari paesi del mondo. Ma l'hai sentito Giacobbo? Ieri ha dato la risposta, come fa? No. Anche, cioè, ho sentito Giacobbo, però non credi alle onde radio, non ci credi, ma magari sì, ma magari sì, potrebbe anche essere, per carità, però non vedo perché allora tutti insieme, cioè perché sono capitati tutti, lo storm è capitato in quel momento, sì, certo. Vabbè, no ok, ma non in un paese non ti ha coinvolto, insomma, questa cosa non ti ha convinto. Non mi ha convinto. Guarda, io mi ricordo molti anni fa una pioggia negli Stati Uniti di rane, invece, credo, alla quale non sia mai stata data poi una risposta sensata. Non sono mai spiegati come mai queste rane siano piovute dal cielo, comunque sia. Ma quelli sono fenomeni spiegabili abbastanza facilmente, vengono coinvolti in vortici, portati. Ah, è vero, allora questa cosa dei vortici. Ah, ecco, sì, è vero, ma è un fenomeno assolutamente naturale. Gli uccelli che muoiono in volo, no. Già questo no, perché è chiaro. Va bene, grazie Giuseppe. Grazie a lei, buongiorno. Ho capito che non sono tutta rana in testa. Cristina da Roma, buongiorno. Buongiorno. Pensa alle rane che gli piovono in testa. Ha avuto anche la spiegazione, uno dice vabbè, un vortice. Io sono un pochettino confusa perché avevo pensato agli accordi della Mirafiori, ma provo, telefonando da Roma, provo a dire l'aggiunta Alemann, rimpasto. Hai visto che hai visto che rimpastone, Cristina? Che rimpastone, staremo a vedere adesso. Vedrete sicuramente. Allora, speriamo delle belle, nel buon senso ovviamente del termine. Grazie Cristina. Grazie, buona domenica, ciao. No, la risposta non l'abbiamo avuta, non c'è stata e non ho coraggio a dirvela. Ciao, ci sentiamo domenica prossima. Allora, il primo indizio era da leggere in un altro modo. Paura stava per FIFA, avere paura, avere FIFA. E di FIFA parlavamo, infatti, perché la risposta era Marta Vieira da Silva, che per la quinta volta è stata pallone d'oro femminile. Ecco perché in fila per tre, perché è stata capocannoniere per tre volte e pallone d'oro per cinque volte consecutive. Questo perché cinque giorni. Se aveste ascoltato più indizi, avreste poi scoperto il Brasile e anche il nome Marta, che sarebbe stato nell'ultimo indizio, per cui non era facilissimo, è vero, ma bisognava tradurre in qualche modo la parola paura per avere poi la soluzione a portata di mano. Grazie a tutti però davvero, ci risentiamo domenica prossima e poi sabato prossimo durante 2024 dalle 15:30 con il nuovo appuntamento sui videogiochi. Grazie a Giorgio De Luca redazione, l'assistenza di Margherita Ilina, Paolo Corleoni in regia e a voi tutti. A domenica prossima da Stefano Gallarini, buona giornata.